snella sigaretta così bianca che vai consumandoti al calore. Io che ti reggo con la mano stanca, io penso quanto è falso il tuo candore. Sei bianca fuori ma il tuo corpo è pieno di biondo sottilissimo veleno. Hai la donna e somigliava a te, il suo veleno lo diede tutto a me. Così, come una sigaretta che in fumo se ne va, la donna più perfetta soltanto il fumo ti lascerà. Basta una piccola scintilla perché s'accenda tutta di passione per me. Come una sigaretta che in fumo se ne va. Un dì credevo candida e perfetta, colei che già sognavo tutta mia, ora è di tutti e come sigaretta, ognuno fuma e poi la getta via. Così come ho gettato via dal cuore il mio rimpianto per quel primo amore, è sfumato ormai di quel che fu, che resta un po' di cenere non più. Come una sigaretta che in fumo se ne va, l'ultima illusione col primo vento svanisceva. Se brilla ancora una scintilla per me, non è soltanto ma so bene cos'è. L'ultima sigaretta.